Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre e per l'ennesima volta salutiamo il nostro amico Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco e un saluto ad ascoltatori. E allora, caro Gianluca, adesso ci racconti una vicenda che ci deve mettere in allerta, perché veramente i problemi quando utilizziamo i nostri computer possono esserci un po' ovunque, e soprattutto se abbiamo gli hacker che si fanno sempre più intelligenti. Sì Francesco, ne approfittiamo raccontando chiaramente una disavventura che stiamo seguendo come associazione e che speriamo insomma di risolvere anche al più presto. Ed è una disavventura di un professore mestrino, un 60enne professore mestrino, che all'inizio ancora di agosto si è visto sottrarre ben 8.000 euro da un hacker che tramite il cosiddetto phishing è riuscito a sottrargli i codici della banca e ad auto inviarsi due bonifici da 4.000 euro l'uno a un'altra banca e a nome di un beneficiario che appunto ha potuto prendere questi due bonifici. Ora andiamo a raccontare la storia perché ha diverse sì, sfaccettature. Anzitutto allora partiamo da un po' dall'ingenuità del professore, che avendo ricevuto una mail con la testata con la facciata della sua banca, quindi del tutto identica a quella che regolarmente gli mandava la banca una volta a settimana, due volte a settimana, con comunicazione personale, questa persona chiaramente è entrato dentro l'allegato, ha inserito i propri codici bancari e purtroppo a quel punto il computer si è completamente bloccato, tanto che dopo 10 minuti di tentativi il professore ha dovuto spegnerlo, riaccenderlo, e però in quel lasso di tempo si è reso conto che gli sono stati rubati due bonifici da 4.000 euro l'uno. A quel punto ha chiamato immediatamente il call center di Banca Intesa, era pomeriggio quindi non poteva andare fisicamente nella sua banca, e il call center di Banca Intesa appunto gli ha confermato che erano partiti questi due bonifici, gli ha anche detto dove stavano andando, ed era una banca estera, una banca francese, e bene o male sapevano anche chi fosse il beneficiario di questi bonifici. A quel punto il professore ha chiesto di bloccare i bonifici, di revocarli, cosa che teoricamente si può fare nell'arco delle 24 ore, però dalla banca gli hanno detto che invece questi tipi di bonifici non si potevano bloccare, al che il professore il giorno dopo è andato nella sua filiale della propria banca per chiedere di fare qualcosa, portandogli anche il nome della banca estera nella quale appunto sarebbero arrivati i due bonifici e chiedendo appunto che la sua banca telefonasse, sì, a questa banca estera e bloccasse il tutto. Purtroppo dalla banca stessa gli hanno detto che non era possibile, che loro non avevano questi mezzi, e quindi in parole povere il professore adesso in questo momento si trova con il conto con 8.000 euro in meno appunto sottratti da questo hacker. Oltretutto dalla banca stessa l'hanno invitato a presentare una richiesta di rimborso, quindi alla stessa banca, e questa richiesta di rimborso è stata rigettata di recente, quindi il professore che adesso stiamo seguendo in parole povere si trova con queste 8.000 euro in meno e non è riuscito in nessuna maniera a bloccare i bonifici, né tantomeno a contattare la banca estera per bloccare questo furto. Chiaramente noi siamo rimasti un po' di stucco perché riteniamo, al di là un po' della leggerezza che è fatta dal professore, ma in questo caso la riteniamo un'ingenuità che potrebbe capitare a tanti, infatti invitiamo tutti a stare molto attenti prima di inserire i propri codici bancari all'interno appunto di un allegato o su una mail che ci arriva, però pensiamo che insomma da parte sua la propria banca non abbia fatto assolutamente niente per venire incontro al proprio cliente e per riuscire insomma a far sì che questi soldi non sparissero. Ecco, mi viene da pensare, io utilizzo normalmente insomma i conti online anche per fare io stesso dei bonifici, ci sono alcune banche che hanno magari dei livelli di sicurezza un po' più alti, dove quando fai un bonifico ti viene chiesto un ulteriore numero che magari ti arriva, un codice che ti arriva tramite messaggio al cellulare, questo va un po' a garantire ancora di più la sicurezza personale dei soldi. Evidentemente in questo caso questa cosa non è avvenuta. Sì, Francesco, tra l'altro come ci aspettavamo, sappiamo che con l'assicurazione è tutto molto difficile, comunque la banca appunto ha negato il rimborso proprio perché ha detto che non è stato violato il sistema informatico della banca stessa, quindi la banca dice noi non abbiamo nessuna responsabilità in questo. C'è però anche da dire una cosa che rende un po' più grave la situazione. La banca da alcuni giorni ha inserito sul proprio sito un avvertimento appunto che dice di stare attenti a questi allegati in cui vengono chiesti i codici bancari, proprio perché ci sono degli hacker che riescono a sfruttare questi codici per appunto sottrarre bonifici e soldi dei conti correnti. Questo messaggio lo hanno messo successivamente poi a quello che è successo al dipendente pubblico Mestrino, e a quanto abbiamo saputo l'hanno messo perché questo dipendente pubblico non è il primo che abbia subito questa truffa e quindi insomma la banca ne è a conoscenza, quindi secondo me anche questo rende ancora un po' più grave la situazione e insomma ci fa capire come il rapporto tra clienti e banche diventi sempre più teso, e certo queste cose non aiutano assolutamente. Beh, è ovvio che gli hacker vanno un po' a perseguitare quelle banche dove evidentemente il metodo di utilizzo dei codici e dei bonifici è facilmente violabile rispetto ad altre banche, quindi è più facile che sia capitato più volte alla stessa banca che non a tante banche diverse. Sì, questo è assolutamente vero, anche perché possiamo dire che abbiamo visto anche degli interventi che sono stati fatti proprio su questa vicenda, riguardo questa vicenda che abbiamo un po' raccontato, e abbiamo appunto visto che molte persone dicono con la mia banca non sarebbe mai successo, e quindi insomma è verissimo quello che stai dicendo te adesso. Va bene, insomma ricordiamo che bisogna sempre stare attenti, non fatevi fregare, non date mai i codici di accesso del vostro conto corrente a delle mail che ve li chiedono, perché è proprio una cosa che non sta né in cielo né in terra. Mai la vostra banca vi chiederebbe i codici vostri che lei conosce attraverso la mail. Grazie all'Adico, ricordo che c'è il sito www.associazionedifesaconsumatori.it che potete sempre andare a vedere con interessanti notizie, e grazie ovviamente anche a Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, grazie. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.